Se siamo docili allo Spirito Santo, l'immagine di Cristo verrà a formarsi sempre più nitidamente in noi e in questo modo saremo sempre più vicini a Dio Padre. Sono infatti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio i veri figli di Dio. L'umiltà e la prudenza nell'impartire la direzione spirituale. 18. Ora mi soffermerò sulle disposizioni di chi assiste altri nella direzione spirituale. Appare evidente, in primo luogo, che bisogna amare gli altri come essi sono, cercando esclusivamente il loro bene. Pertanto il suo atteggiamento sarà sempre positivo, ottimista e stimolante. Inoltre, dovrà anche stimolare in se stesso la virtù dell'umiltà per non perdere di vista di essere soltanto uno strumento del quale il Signore vuole servirsi per la santificazione delle anime. Si impegnerà a prepararsi nel modo migliore possibile per esercitare il suo compito, per conoscere i principi fondamentali della vita spirituale che di solito alimentano le anime e per dubitare prudentemente, ossia non fidarsi esclusivamente del proprio criterio, se si presentano situazioni particolari. In questi casi, oltre che pregare di più, chiederà più luce allo Spirito Santo per studiare e mettere a fuoco il problema. Se è necessario, in accordo con gli insegnamenti della morale, si potrà chiedere un parere a persone più dotte, presentandolo come un caso ipotetico e modificando le circostanze, in modo che per osservare rigorosamente il segreto d'ufficio e sempre con la dovuta prudenza sia completamente salvata l'identità della persona di cui si tratta. Nell'opera da sempre sappiamo e abbiamo accettato esplicitamente che la persona con cui si parla fraternamente per aiutare meglio l'interessato possa consultare il direttore competente quando lo ritiene opportuno, affinché sia ancora più chiaro lo spirito di libertà e di confidenza in queste situazioni, che non saranno abituali né frequenti, la persona che riceve il colloquio fraterno domanda all'interessato se desidera chiedere consiglio egli stesso a un direttore o se preferisce che a farlo sia colui che ascolta la confidenza. È un modo di fare che rafforza le misure di delicatezza e di prudenza vissute fin dal principio. Peraltro, tutti hanno la possibilità di ricorrere liberamente e direttamente al padre o a un direttore regionale o della delegazione per parlare della propria vita interiore. Tutto ciò dà la garanzia a chi nell'Opus Dei pratica la direzione spirituale di ricevere ciò di cui ha bisogno e che desidera. Lo spirito che ci ha trasmesso San José María senza aggiunte né modifiche. Nello stesso tempo, neppure lontanamente, si lede il dovere di conservare il segreto naturale che va custodito con la massima cura e severità. Una persona che non fosse esemplare su questo punto mancherebbe di una caratteristica fondamentale per impartire la direzione spirituale. Coloro che assistono altri cercano di stimolare sempre la libertà interiore di queste anime, affinché rispondano volontariamente alle esigenze dell'amore di Dio. La direzione spirituale, pertanto, si dà senza uniformare i fedeli dell'Opus Dei. Ciò sarebbe illogico e una mancanza di naturalezza. L'opera ci vuole liberissimi e diversi, però ci vuole cittadini cattolici responsabili e coerenti, in modo che il cervello e il cuore di ognuno di noi non procedano separatamente, ognuno per conto proprio, ma concordi e sicuri per fare in ogni momento ciò che si vede con chiarezza che si deve fare, senza lasciarsi trascinare, per mancanza di personalità e di lealtà verso la coscienza, da tendenze o mode passeggere. Logicamente, devono parlare con la fortezza necessaria per stimolarli a percorrere la via che Dio ha tracciato per loro. Però, anche qui con estrema delicatezza, perché non sono né si sentono padroni, ma servitori delle anime. Fortiter in re, suaviter in modo. Infatti, la prudenza vuole che quando la situazione lo richiede si adoperi la medicina, totalmente senza palliativi, dopo aver messo allo scoperto la piaga, Innanzitutto dobbiamo fare così con noi stessi e con coloro che per motivi di giustizia o di carità siamo obbligati ad aiutare. In questo incarico non deve bloccarci il pensiero che anche noi stessi dobbiamo migliorare proprio su quel medesimo punto. Quando un medico è malato, smette forse di curare, anche se è afflitto da una malattia cronica. La sua malattia gli impedirà forse di prescrivere ad altri malati la medicina opportuna? Certamente no. Per curare gli basta possedere la scienza adeguata e metterla in pratica, con lo stesso interesse con cui combatte la propria infermità. La formazione liturgica. 19. All'interno della formazione spirituale, molto unita alla formazione dottrinale e religiosa, si pone l'amore per la santa liturgia della Chiesa, nella quale, in modo eminente nella Santa Messa, si compie l'opera della nostra redenzione. La Santa Messa ci pone di fronte ai misteri principali della fede, in quanto è il dono che la Trinità fa di se stessa alla Chiesa. Si comprende allora come la Messa sia il centro e la radice della vita spirituale del cristiano. Il messaggio cristiano è performativo, vale a dire il Vangelo e la liturgia che lo porta alla nostra esistenza non è soltanto una comunicazione di realtà che si possono conoscere, ma una comunicazione che comporta fatti e cambia la vita. Nessuno che abbia buon senso e senso soprannaturale può pensare che la liturgia sia una cosa da preti, o che i preti celebrano e il popolo si limita ad assistere. Ben lontano da una simile concezione, San José María richiedeva la partecipazione di tutti, dalla comprensione dell'intimo legame tra liturgia della parola e liturgia eucaristica, o della dimensione essenziale dell'adorazione nella celebrazione, fino ad alcuni dettagli precisi come l'uso del messale dei fedeli per rendere più facile la loro partecipazione, prima con il cuore, poi con le parole e i gesti previsti. Ricordo di aver sentito dire che già negli anni 30 del secolo scorso, per dare maggior vigore a questo insegnamento, egli volle che la messa fosse dialogata, con risposte a voce alta alle preghiere pronunciate dal sacerdote. Allora non era abituale, mancavano 30 anni al Concilio Vaticano II. La liturgia della parola. 20. Tutta la storia della salvezza e la liturgia che la celebra e la fa presente è caratterizzata dalla iniziativa di Dio che ci convoca e aspetta da ognuno di noi una risposta immediata, con un amore che poi modelli tutta la giornata, con l'intenzione che il sacrificio dell'altare si prolunghi nelle successive 24 ore. La celebrazione della parola nella Santa Messa è un autentico dialogo che richiede una risposta delicata. È Dio che parla al suo popolo, il quale fa sua la parola divina mediante il silenzio, il canto, eccetera. Si aderisce a questo annuncio professando la propria fede nel credo e pieno di fiducia ognuno si rivolge al Signore con le proprie richieste. Nelle letture il Paraclito parla con voci umane affinché la nostra intelligenza comprenda e contempli, affinché la volontà si robustisca e l'azione si compia. La possibilità che esse divengano realtà nella nostra vita dipende dalla grazia divina, ma anche dalla preparazione e dal fervore di chi le legge e le medita, di chi le ascolta. Attraverso le Sante Scritture, infatti, siamo indotti a compiere azioni virtuose e alla pura contemplazione. Qui si presenta a noi un punto molto concreto di esame e di crescita personale. Quale frutto ricaviamo da queste letture ogni giorno nella Santa Messa? Assaporiamo gli istanti di silenzio previsti dopo il Vangelo per applicare a noi la predicazione del Signore. Ho ricordato che siamo stati in molti testimoni del modo in cui San José María si impegnava a fondo nelle letture della Messa. Lo si percepiva persino dal tono della sua voce. Si ripeteva con ripetuta frequenza un fatto. Dopo il santo sacrificio appuntava le frasi che lo avevano colpito più profondamente per considerarle nella sua preghiera personale. In questo modo la sua anima e la sua predicazione si arricchivano costantemente. Cerchiamo anche noi di imitare un maestro così esemplare. Dio si è rivelato a noi affinché lo conosciamo di più e meglio e affinché lo facciamo conoscere con naturalezza, senza rispetti umani. La liturgia eucaristica, 21. In questa parte della Santa Messa il sacerdote non si rivolge principalmente ai fedeli riuniti. In realtà l'orientamento spirituale e interiore di tutti, del sacerdote e dei fedeli, è versus Deum per Iesum Christum, verso Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nella liturgia eucaristica, sacerdote e popolo certamente non pregano l'uno verso l'altro, ma verso l'unico Signore. Pertanto, durante l'orazione, guardano nella stessa direzione, verso un'immagine di Cristo nell'abside, o verso una croce, o semplicemente verso il cielo, come fece il Signore nella preghiera sacerdotale la notte prima della sua passione. Quanto ci aiuta a vivere questa adorazione comune, l'uscire incontro al Signore che viene e fissare i nostri occhi sulla croce dell'altare. 22. Nel sacrificio dell'altare sono necessarie l'obbedienza e la pietà intimamente unite. Sono anche requisiti fondamentali perché la liturgia sia sorgente e culmine della vita della Chiesa e di ogni cristiano. L'obbedienza, prima di tutto, perché le parole e i riti della liturgia sono espressione fedele, maturata nei secoli, dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come Lui. Conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori. Ecco il profondo fondamento del perché dobbiamo obbedire, amare ogni parola, ogni gesto, ogni rubrica, perché fanno arrivare il dono di Dio, ci aiutano a essere alter Christus, ipse Christus. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che la piena efficacia della liturgia dipende anche dal fatto che ciascuno, sacerdote o fedele, metta l'anima in consonanza con la voce. E Benedetto XVI spiegava che nelle cerimonie la vox, le parole, precedono la nostra mente. Di solito non è così. Prima si deve pensare e poi il pensiero diventa parola. Ma qui la parola viene prima. La Sacra Liturgia ci dà le parole. Noi dobbiamo entrare in queste parole, trovare la concordia con questa realtà che ci precede. Questa è la prima condizione. Noi stessi dobbiamo interiorizzare la struttura, le parole della liturgia, la parola di Dio. Così il nostro celebrare diventa realmente un celebrare con la Chiesa. Il nostro cuore è allargato e noi non facciamo un qualcosa, ma stiamo con la Chiesa in colloquio con Dio. Nella vita di San José María si fondono in modo mirabile pietà e obbedienza, che costituiscono un esempio di qualcosa di molto reale. In nessun altro modo potremo esprimere meglio il nostro massimo interesse e amore per il Santo Sacrificio se non rispettando accuratamente anche la più piccola delle cerimonie prescritte dalla sapienza della Chiesa. E oltre all'amore deve sollecitarci la necessità di somigliare a Gesù Cristo, non solo interiormente, ma anche esternamente, nel muoverci, negli ampi spazi dell'altare cristiano, con il ritmo e l'armonia della santità obbediente che si identifica con la volontà della sposa di Cristo, e cioè con la volontà di Cristo stesso. Mi piacerebbe che queste brevissime considerazioni intorno alla struttura della Santa Messa aiutassero tutti noi a stimolare l'interesse per la liturgia, alimento e parte indispensabile della vita spirituale. Ricordiamoci che il nostro fondatore, già nel lontano 1930, scrisse che tutti nell'opera devono avere un particolare impegno nel seguire con totale interesse tutte e ognuna delle disposizioni liturgiche, anche quelle che possano sembrare poco o per nulla importanti. Chi ama non perde un dettaglio. L'ho visto, queste minuzie sono una cosa molto grande, amore. E obbedire al Papa, fin nelle cose minime, significa amarlo. E amare il Santo Padre significa amare Cristo e sua Madre, Maria, nostra Madre Santissima. E noi aspiriamo solo a questo, perché li amiamo, vogliamo che omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.